Questa sera continueremo la nostra avventura negli Atti degli Apostoli. Siete entusiasti che stiamo vedendo questo libro insieme e che stiamo scoprendo i tesori che contiene? Abbiamo visto, grazie, sembra un po' sì. Abbiamo visto insieme come gli Atti degli Apostoli iniziano con l'adempimento di quella promessa che Gesù aveva fatto al popolo di Israele. Quella promessa che lo Spirito Santo, il Consolatore, sarebbe sceso e li avrebbe riempiti e avrebbe abilitato loro ad avere potenza per andare ed essere testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Vi ricordate? E abbiamo visto due volte fa, come in Atti 9, più o meno intorno al 40 d.C., e la narrazione che parla negli Atti al capitolo 9, lo Spirito Santo era sceso e i discepoli erano stati resi capaci di conquistare Gerusalemme con il messaggio di Cristo Gesù ed erano andati in Galilea, in Giudea, in Samaria, ma alle estremità della terra stavano ancora aspettando. Non c'era ancora l'ombra di questa estremità della terra, però nel frattempo la grazia divina di Cristo Gesù stava lavorando dietro le quinte per quell'estremità della terra e nella sua sovranità ha preso e ha incontrato Saulo. Si è rivelata la vita di Saulo e lo ha portato a diventare Paolo. E Paolo sarebbe stato quell'apostolo, quel discepolo che tutti noi sappiamo era stato chiamato a tutti i popoli, ai gentili, ai pagani, a quelli impuri. Ma stavano aspettando ancora. E quindi al capitolo 10, la volta scorsa abbiamo visto come le estremità della terra hanno chiamato. Dalla città di Cesarea, un uomo di nome Cornelio, della corte italica, uno come noi, un italiano, aveva chiamato. E Pietro aveva risposto. E la salvezza era entrata in quella casa. E tutta la sua famiglia aveva ricevuto il messaggio che Cristo Gesù è vivo, che Cristo Gesù trasforma ed erano pronti a vivere una vita con Lui. Non è fantastico che l'Italia, in rappresentanza di tutte le nazioni, di tutti i popoli impuri, contaminati, gentili, pagani, come li vogliamo chiamare, che non erano il popolo di Israele, aveva chiamato. E la salvezza di Cristo Gesù era entrata in quella casa. Questo mi fa pensare che non c'è casa dove la grazia divina di Cristo Gesù nella sua sovranità non possa entrare. Non c'è una casa dove questa grazia non possa entrare. Questo mi fa pensare che non c'è persona alla quale quella grazia sovrana di Cristo Gesù nella sua sovranità, nel suo avere il controllo di ogni cosa, non possa rivelarsi e non possa portare quella salvezza. Perché ogni persona che riconosce e arrende a Cristo Gesù la propria vita e riconosce in Lui il proprio personale salvatore, può ricevere quella salvezza. Questo è qualcosa di soprannaturale. E la bomba era esplosa come una bomba atomica. Quando Pietro ha fatto entrare nell'acqua Cornelio e lo ha fatto uscire da quell'acqua, la bomba era esplosa, perché la fine del particolarismo religioso era venuta. Non c'erano più quelli che Dio aveva scelto e quelli che Dio non aveva scelto e che dovevano essere lontani da quelli che Dio aveva scelto, ma coloro che erano stati considerati impuri e contaminati fino a quel momento, erano ora abilitati ad entrare e a ricevere quella grazia che era stata promessa. E quella scelta e quella elezione che abbiamo visto la volta scorsa, che Dio aveva fatto in Abramo, era ora estesa ufficialmente non solo al popolo di Israele, ma a tutte le nazioni, a tutti quegli uomini pii e timorati di Dio come Cornelio, che avrebbero cercato Cristo Gesù e avrebbero trovato in Lui la sua salvezza. Non siamo grati a Dio che Pietro quel giorno ha deciso di entrare in quella casa, perché questo significa che noi oggi possiamo essere qui, Questo vuol dire che io e te oggi possiamo riconoscere che Gesù è vivo per la nostra vita, possiamo arrendere noi stessi a Lui, possiamo affidarci a Lui e trovare salvezza, perché è per noi ed è possibile per noi. Ora, come ogni cosa grandiosa e soprannaturale che Dio fa, c'è qualcosa di naturale e umana che l'uomo poi vuole opporre. Perché non riusciamo a capire tutto quello che Dio vuole fare, e quando non capiamo quello che Dio vuole fare, attacchiamo. Perché non possiamo fidarci di un qualcosa che non abbiamo capito fino in fondo. E il popolo di Israele in quel periodo storico non aveva capito fino in fondo come era stato possibile che Pietro fosse entrato in una casa di persone non ebree, cosa vietata, di più avesse mangiato con loro i cibi che loro mangiavano, cosa vietata, perché il popolo di Israele aveva delle prescrizioni molto precise che dovevano seguire se volevano rimanere in vita e volevano continuare ad essere figli di Dio. E quando noi non capiamo, noi entriamo nella difensiva e attacchiamo, perché non riusciamo a comprendere quello che Dio vuole fare e non riusciamo a fidarci di quello che Dio vuole fare, perché non è sempre comprensibile ai nostri occhi. E pensiamo che noi sappiamo fare meglio e pensiamo che noi abbiamo deciso meglio. E questo è il peccato. Il peccato non è altro che pensare che quello che Dio ci sta chiedendo non è per noi. E pensare che noi sappiamo meglio, che noi abbiamo deciso meglio e che noi dobbiamo seguire quello che noi abbiamo deciso. Però, nonostante questa posizione che il popolo di Israele aveva preso, Dio li aveva avvisati. In tutto il Vecchio Testamento era pieno di promesse e di parole che avrebbero parlato che tutti i popoli sarebbero stati salvati, e non solo il popolo di Israele. Eppure Isaia ce l'aveva scritto, gliel'aveva detto al capitolo 55, aveva ricordato loro che i nostri pensieri non sono i suoi pensieri, che le nostre vie non sono le sue vie, perché i pensieri di Dio sono più alti dei nostri pensieri e le sue vie sono più alte delle nostre vie. E lui ce l'aveva detto, anche Gioele, e lo leggiamo al verso 32 del capitolo 2, il profeta Gioele l'aveva scritto e aveva detto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Chiunque! Perché vi siete così preoccupati che Pietro sia entrato in casa di questo italiano? Mica siamo mala gente noi. Noi siamo bravi, mangiamo pure bene. La religiosità degli scribi e dei farisei aveva decretato che quell'amore agape, l'amore di Dio, di cui abbiamo sentito predicare nelle ultime domeniche, era solo ed esclusivamente per loro. Loro avevano letto, avevano interpretato la Torah e avevano deciso che solo loro avevano l'esclusiva di questo amore e nessun altro avrebbe potuto avere accesso a questo amore. Perché questo? Perché la religiosità e la tradizione sono opera dell'uomo, e l'opera dell'uomo è costituita per una cerchia ristretta di persone che sono abituati a vivere e a compiere una certa ristretta opera. La religiosità e la tradizione sono opera dell'uomo per una cerchia ristretta di persone che si conformano ad un modo di fare. Ma la salvezza e la redenzione in Cristo Gesù sono opera del Creatore, per chiunque riconosce in Lui la sua salvezza. Questa è la differenza che lo Spirito Santo voleva rivelare ai discepoli, ai credenti, ai cristiani, che ognuno che arrende la propria vita a Cristo Gesù lo può ricevere come personale salvatore, come redentore della propria vita. E da questo momento in poi, amici miei, succede il delirio nella Chiesa, succede il pandemonio, perché non è possibile che tutti possano essere salvati. Non è possibile, cioè ci deve essere a forza necessariamente una distinzione, perché siamo tutti così diversi. Se siamo tutti così diversi, come possiamo essere tutti ugualmente figli di Dio? Cioè, non è possibile. Cioè, non si può fare. E la metà delle lettere che l'Apostolo Paolo indirizzerà alle chiese nel Nuovo Testamento sarà per risolvere tutta questa bomba che era esplosa, per confrontare tutte quelle diversità che tutti scelti da Cristo Gesù avevano portato entrando a far parte della Chiesa. Non c'era più chi era circonciso e chi non era circonciso. Non c'era distinzione, ma solo fissando gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, noi possiamo andare avanti insieme. Questa è la sfida che loro avevano, questa è la sfida che noi abbiamo oggi. Non è cambiato, perché la Chiesa non è quel posto dove io vado per incontrare le persone che mi piacciono. Perché tu non puoi piacere a tutti e tutti non possono piacere a te. E la Chiesa siamo noi. La Chiesa siamo io e te. E tu non piaci a tutti. Ma è piaciuto a Dio amarti. Ed è questa la differenza. Quando noi fissiamo i nostri occhi a Dio e a Cristo Gesù, noi riconosciamo che è piaciuto a Lui amarmi. È piaciuto a Lui amarti, perché tu piaci a Dio. Ed è questo quello che conta nel nostro essere tutti e nel nostro essere diversi. E Saulo, se voi ci pensate, non piaceva a tutti, non piaceva a nessuno. E quando la grazia di Dio si è rivelata alla vita di Saulo, tutti hanno avuto un po'... Perché Saulo non piaceva a nessuno, ma è piaciuto a Dio amarlo, perché Dio sapeva che la storia della vita di Saulo sarebbe diventata un piccolo tassello di una storia molto più grande, che avrebbe parlato della missione di Cristo Gesù, che doveva arrivare a noi oggi e che doveva parlare del suo piano di salvezza. Cornelio non piaceva a tutti, non piaceva a nessuno, neanche lui. Era uno sporco italiano, non mangiava le cose che mangiavano gli ebrei, si contaminava con questi cibi incontaminati. Eppure è piaciuto a Dio amarlo. Continuiamo e vediamo quello che accade all'indomani di questo battesimo in acqua che gli italiani conquistano in onore e in testimonianza di tutti i popoli della terra. Amen? Vi piace? Io mi sento gasatissimo di questa cosa. Atti capitolo 11, continuiamo. Gli apostoli e i farisei che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano e gli dicevano: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi, come hai potuto? Hai anche mangiato con loro. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Ioppe in preghiera e, rapito in estasi, ebbi una visione. Un oggetto simile a una gran tovaglia tenuto per i quattro capi scendeva giù dal cielo e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere rettili del cielo, e udì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: no, assolutamente, Signore, perché nulla di impuro o di contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma la voce del Signore ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. In quell'istante, tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. E io mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Meraviglioso. Ora, la prima domanda che a me è venuta in mente è: come è stato possibile per questi fratelli e discepoli a Gerusalemme sapere il giorno dopo o nei giorni dopo quello che era successo nella piscina della casa di Cornelio in Cesarea sulla costa della Cilicia? Cioè, non è che era dietro l'angolo. Allora ho pensato, sicuramente Cornelio, in preda all'entusiasmo, avrà condiviso su Facebook la foto del suo battesimo. Come noi faremo domenica prossima, perché domenica prossima e la domenica ancora, la mattina avremo i battesimi e condivideremo le foto di questa festa su Facebook. E io credo che Cornelio ha fatto la stessa cosa. E sono andato a cercare il suo profilo e l'ho trovato. E vi condivido, eccolo, Cornelio della Corte Italica, non so se si vede bene, ha condiviso questa foto nella vasca e ha scritto: Gesù è vivo, anche noi siamo figli di Abramo, grazie a Cristo abbiamo permesso di entrare alla presenza di Yahweh. Hashtag non ci posso credere, hashtag storie di vita vera, ci siamo battezzati tutti, anche noi come Gesù, e si è messo a piangere, perché un buon italiano piange sempre quando si battezza. La storia della mia famiglia non sarà più la stessa. Grazie Simon Pietro per essere entrato nella nostra casa. Ministro speciale, hashtag mandato da Dio, hashtag il nostro angelo. E Pietro non ha perso animo, perché anche lui era entusiasmo, e ha condiviso la foto di Cornelio sul suo profilo e ha scritto: quando Gesù abilita gli stranieri a ricevere lo Spirito Santo promesso a noi, allora non puoi fare altro che battezzarli in acqua. Bandierina dell'Italia! Italia per Gesù! Hashtag viva la parmigiana, perché sicuramente c'era la parmigiana quella sera a casa di Cornelio, io lo so. Hashtag fino all'estremità della terra, hashtag ambasciatore di Cristo. Ora, quando noi mettiamo le cose su Facebook, io non so se voi ve ne siete resi conto, ma diventano di dominio pubblico. Quindi chiunque può commentare e dire quello che vuole. E non hanno perso tempo a commentare la foto di Cornelio, dei Romani, come Massimo Lucio IV, che era il suo capitano, diciamo così, e ha scritto a Cornelio: non fare l'ebreo, tanto lo sanno tutti che sei di Grumoapula, cioè da là vieni. Hashtag moglie e buoi dei paesi tuoi, hashtag tu vuoi fare l'americano, hashtag ma sei nato in Italia, dove devi andare? Aspetta che lo scopre Nerone e vedi che ti fa. Pugno in faccia. Anche la foto di Pietro è stata commentata da Mattia, uno degli apostoli e dei discepoli. E Mattia subito ha commentato: gloria a Dio, Gesù è buono, non vedo l'ora di ascoltare tutta la storia, cuoricino, cocchino. Torna presto, viva l'Italia, spaghetti forever, si fort. Oltre a questi commenti, aspettate che non è finita. Ci sono poi quelle persone che non hanno il coraggio di commentarti la foto, però sono un po' indignate del tuo status e quindi condividono nel loro status un pensiero generale che non riguarda te, per condividere la loro frustrazione con l'intera umanità, perché pensano che sia importante per tutti sapere quello che loro pensano. E così è stato subito per Tiberio Plinio, che era il vicino di Cornelio. E subito gli ha detto: incredibile come certi romani si vendono al miglior offerente e lo sbandierano ai quattro venti. Cioè, boh, hashtag quattro facce, hashtag senza vergogna, gli ha messo qualche emoticon di qualche mascherina e poi gli ha messo hashtag poker face, hashtag Lady Gaga ha ragione, questo per i più giovani, hashtag non fare il VIP, tanto non ci crede nessuno, e questo è il mio hashtag preferito, hashtag vatti a fare circoncidere. Ti è piaciuto? E subito anche da Gerusalemme, vedendo la foto di Pietro, io penso a Tommaso, detto Didimo, no? Che secondo me è stato preso in giro parecchio da tutti i discepoli, perché come tutti questi anni con Gesù ti abbiamo detto che Gesù è risorto e devi mettere il dito nella piaga, ma sei proprio un cocomero. E quindi lui, secondo me, aveva un po' di risentimento, soprattutto con Pietro. E quindi subito Tommaso ha la sua rivalsa contro di Pietro. Non guardare alla pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, piuttosto guarda la trave nel tuo. Sempre pronti a giudicare, e poi si credono i leader della Chiesa. Hashtag credibilità zero, hashtag predica bene e razzola male, hashtag altro che su questa pietra, hashtag ravvediti. Ma lo status migliore è quello di Eleazaro. Perché Eleazaro ha il coraggio, non so se voi avete qualche amico, lo so che non c'è tra di noi persone che fanno questo, qualche amico che per avvalorare quello che è il suo pensiero cita la Bibbia, perché la deve dire, deve trovare quel versetto che dice quello che dice lui, che non c'entra niente con quello che significa. Così Eleazaro: terrete lontani i figli di Israele da ciò che potrebbe contaminarli, affinché non muoiano a causa della loro impurità. Qualora contaminassero il mio tabernacolo che è in mezzo a loro, Levitico 15:31. Sai, quei versi di spessore, no? Che nemmeno sai che stanno nella Bibbia. Hashtag vai a farti benedire, hashtag i falsi fratelli, ipocrisia, le perle ai porci, non c'è più religione, stracciamoci le vesti, hashtag la fine dei tempi. È successo un delirio. Cornelio si era battezzato, tutti erano in rivolta, tutti non sapevano più che pesci dovevano prendere. La verità è che Israele era stata eletta per il bene dell'intera umanità, affinché questo amore agape, l'amore di Dio, arrivasse fino all'estremità della terra. Questa è la verità. E il pastore ha concluso il messaggio domenica scorsa dicendoci e incoraggiandoci a indossare quelle scarpe di quell'amore agape, di quell'amore di Dio, affinché noi possiamo correre quella corsa che ci è posta davanti. E questa sera io voglio vedere con voi tre caratteristiche che noi abbiamo imparato fino ad oggi attraverso la lettura del libro degli Atti degli Apostoli, che ci possono aiutare a calzare queste scarpe, di questo amore agape, di questo amore di Dio, e correre la nostra corsa. Volete sentirle? Prima caratteristica che impariamo attraverso gli Atti degli Apostoli: fedele. È l'essere fedele. Indossa quelle scarpe che ti portano ad essere fedele allo Spirito Santo e fedele al piano di salvezza. Essere fedele allo Spirito Santo non si nasce sapendolo fare. Essere fedele allo Spirito Santo si impara. E noi possiamo impararlo perché i discepoli lo hanno imparato. E noi possiamo impararlo stando alla sua presenza. Stando alla sua presenza e ricevendo il suo amore nella nostra vita. E abbracciando quell'amore che trasforma la nostra vita. Abbracciare l'altezza, la larghezza, la lunghezza, la profondità di questo amore che è per noi e che è per te. Perché come possiamo essere fedeli a qualcuno che non conosciamo? Come puoi? È normale che non lo sai fare. Come puoi essere fedele allo Spirito Santo se non lo conosci? Come puoi affidarti e fidarti di qualcuno che non conosci? Pietro ha imparato ad essere fedele allo Spirito Santo. E Pietro ha sbagliato tante volte. Ma ha saputo aspettare che lo Spirito Santo scendesse, che lo riempisse, ha saputo aspettare quel consolatore e si è fatto consolare. Ti stai facendo consolare? Ha aspettato quel consolatore e si è fatto consolare. Si è così abituato alla presenza di quel consolatore che a un certo punto, come abbiamo letto, mentre stava a casa di Simone il conciatore di pelli, era l'ora sesta, ha detto: ehi, io non ci sono più per nessuno adesso, ma è l'orario che devo stare con lo Spirito Santo. Saluti e baci, io me ne vado in terrazza. Ed è in terrazza che lui ha ricevuto quello che lo Spirito Santo gli voleva dare per arrivare all'estremità della terra. Essere fedeli allo Spirito Santo ed essere fedeli al piano di salvezza. Questo è ancora più difficile, questo è ancora più complicato, perché questo significa rinunciare ai miei pensieri che mi portano a vivere le mie vie e abbracciare quelli che sono i suoi pensieri più alti che mi portano a vivere le sue vie più alte. Questo significa essere fedeli al piano di salvezza, non quello che tu vuoi, non quello che è il tuo interesse, non quello che è il tuo orgoglio, non quello che tu ti aspetti, ma quello che Gesù vuole fare, quello che è il suo piano, quello che tu devi lasciare per seguire quello che è il suo piano. Quando noi viviamo così, allora la storia della nostra vita, come la storia di Saulo, diventa un piccolo tassello di una storia molto più grande che parla della missione di Dio e del suo piano di salvezza per l'intera umanità. E quando noi viviamo la Chiesa nella fedeltà che abbiamo al suo piano di salvezza, non ci sono più io e voi, non ci sei più tu e loro, ma siamo noi, perché è insieme che noi ci stiamo arrendendo al suo piano di salvezza. La verità è che se noi siamo fedeli allo Spirito Santo, inevitabilmente noi siamo fedeli al suo piano di salvezza che lui ha affidato alla sua Chiesa. Prima caratteristica, essere fedeli. Seconda caratteristica, c'è un po' di scirocco dato dal caldo, che dite? Seconda caratteristica, essere ammaestrabili. Indossa. Questa è una parola che non ci piace. Indossa quelle scarpe che ti portano ad essere ammaestrabile allo Spirito Santo e ammaestrabile al suo piano di salvezza. Ammaestrabile allo Spirito Santo non è facile, è un'arte. È un'arte che si impara passo dopo passo, scelta dopo scelta. È un'arte che impariamo rinunciando al nostro orgoglio, a noi stessi, per vivere quello che Dio dice nella sua parola. E Gesù ce l'aveva detto. Chiunque vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi salverà la sua vita per amore del Vangelo la salverà. Marco 8. Gesù ci ha avvisato e Paolo ha imparato a sviluppare quest'arte dell'essere ammaestrabile allo Spirito Santo, sin da quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco. E se Paolo ci è riuscito, io credo che noi ce la possiamo fare. Paolo ci è riuscito così bene che a un certo punto, in Galati, al capitolo 2, al verso 20, ha detto: io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questa vita che ora vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e che ha dato se stesso per me. Ammaestrabili allo Spirito Santo ci porta ad essere ammaestrabili al suo piano di salvezza. Quanto è importante questo. E questa è un'arte, cari amici miei, ancora più difficile, perché questa prevede l'interazione tra le persone. Questa prevede la nostra interazione, la nostra relazione, l'essere ammaestrabili al piano di salvezza, perché siamo noi, la sua Chiesa, che portiamo avanti la missione che Dio ha affidato tramite il riempimento dello Spirito Santo. Ed è qui che vengono in ballo tutte le nostre difficoltà, tutti i conflitti che forse abbiamo vissuto nella nostra famiglia, di come i nostri genitori ci hanno trattato, di come il nostro datore di lavoro ci può trattare, di come noi viviamo il nostro rapporto con l'essere ammaestrabili. E lo riportiamo in quelle che sono le nostre relazioni e lì combiniamo il caos totale, perché non andiamo d'accordo. Quando noi siamo ammaestrabili allo Spirito Santo, inevitabilmente impariamo ad essere ammaestrabili al suo piano di salvezza che lui ha affidato alla sua Chiesa, che siamo noi oggi. E noi saremo capaci di guardare a Gesù, perché siamo da lui ammaestrati e non alle nostre circostanze e alle nostre situazioni e a tutte quelle persone che non ci piacciono, perché piacciono a Gesù, perché Lui ha dato se stesso per loro. Fedele, ammaestrabile e dedicato. Indossa quelle scarpe che ti portano ad essere dedicato allo Spirito Santo e dedicato al suo piano di salvezza. Così importante, così importante. Dedicarci allo Spirito Santo significa consacrare la nostra vita, significa dare attenzione a quello che Lui è. Ho scritto essere destinati a Lui, essere appartati per Lui. E la cosa che più mi fa, a volte mi rende triste, è vedere persone che si ostinano a vivere quella corsa che Gesù ha preparato per loro, ma non sono dedicate e non sono consacrate a Lui, e vivono il loro essere figli di Dio come figli illegittimi, perché è nella nostra consacrazione che noi abbiamo la certezza di essere Suoi figli, è nel nostro essere dedicati a Lui, è nel nostro essere appartati per Lui che noi sappiamo che siamo figli Suoi, che siamo legittimi. E Anania lo sapeva, perché Anania sapeva che essere dedicato a Dio significa essere disposto e non disponibile. Perché quando siamo disponibili e lo Spirito Santo ci dice qualcosa, se ci piace, se non ci costa troppo, se abbiamo tempo, se ci conviene, allora magari possiamo dirgli di sì. Ma se quello che lo Spirito Santo ci dice ci costa e noi siamo disponibili, ci giriamo dall'altra parte e facciamo finta che non abbiamo sentito niente. Non era a me, ah, proprio a me. Oh, tante persone che devono perdonare, è giusto, io devo iniziare. Oh, ho capito, inizia da quello. Ma quando siamo disposti, quando siamo dedicati, quando noi siamo disposti, la nostra attenzione, la nostra intenzione, la nostra propensione, siamo desiderosi di ascoltare quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo, e forse abbiamo paura, forse ci costa troppo, ma siamo consacrati e glielo diciamo. E Anania gliel'ha detto quando lo Spirito Santo gli ha detto devi andare da Saulo, e Anania ha detto scusami, ma tu sai chi è Saulo? Cioè, hai capito di chi stai parlando? Questo uccide tutti quelli che incontra. E mo io devo andare a casa di Giuda, dove Saulo sta, gli devo imporre le mani, devo pregare per lui e gli devo dire che lui è stato chiamato da te. Awe. Io faccio una brutta fine qua. Nel suo avere paura, Anania è stato disposto e non disponibile. È stato disposto ad arrendere la sua paura a Dio, ad arrendere la sua paura davanti alla presenza dello Spirito Santo, ad ascoltare quello che lo Spirito Santo gli stava dicendo, a ricevere guarigione, ed è andato. Lui è entrato in una casa di un assassino e non aveva garanzia che sarebbe uscito da quella casa, perché era disposto a sacrificare tutto se stesso per quel piano di salvezza per il quale lui aveva detto di sì. Alziamoci in piedi e invito la band ad aggiungersi a noi. Due domande voglio che noi possiamo portare a casa questa sera con noi e viverle in questa settimana. E la prima domanda è questa: come la grazia divina di Cristo Gesù, nella sua sovranità, può intervenire da questa sera in poi nella tua vita per portarti a calzare quelle scarpe di quell'amore agapeo, di quell'amore di Dio che ti portano a vivere quelle promesse e quella corsa che Lui ha preparato per te? Tu lo puoi fare. Gesù ti ama, ha dato se stesso per me e per te. Tu puoi, perché i suoi pensieri sono più alti dei tuoi. E io lo so che i tuoi ti dicono di no, ma i suoi dicono di sì. Arrendi i tuoi pensieri. Seconda domanda con cui voglio lasciare noi questa sera è questa: come la grazia divina di Cristo Gesù, nella sua sovranità può entrare nella nostra vita da questa sera e portarci a imparare a calzare quelle scarpe che ci portano ad essere fedele, ad essere ammaestrabile, ad essere dedicato allo Spirito Santo e al suo piano di salvezza che ha scelto di voler compiere attraverso della tua corsa. Se tu non lo sai e tu non credi che sia possibile, vai da Gesù. Lui lo ha fatto prima di te e lui ti ama e lui vuole che tu possa farlo. E io voglio incoraggiare noi a spendere il tempo di queste parole, di questo canto, e poi il pastore ci guiderà in un momento anche di preghiera e di arresa alla presenza di Dio. Ma viviamo questo coro, queste parole che andiamo a confessare questa sera, come un'arresa, come un considerare, come tu puoi, perché tu puoi, perché Gesù ti ha scelto. Amen. Grazie ragazzi.